Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, venerdì mattina ho ascoltato la lettera di una signora che proponeva di sostituire la bandiera italiana al crocifisso. Posso essere parzialmente d'accordo sull'esposizione della bandiera italiana, ma forse sarebbe più educativa quella della CE e, perché no, associata a quella del mondo. Tuttavia, per il momento, lascerei stare il crocifisso al suo posto, non solo per gli studenti, ma soprattutto per i docenti. Tenterò di spiegare il perché. La bandiera della Comunità Europea serve per ricordare ai giovani che dobbiamo considerarci parte della stessa e che lo studio delle lingue straniere non è più un'opzione. La bandiera del mondo serve per ricordare a tutti che ne facciamo parte e che dobbiamo, o dovremo sempre di più, tenerne conto. Un'occhiata alle bandiere da parte degli alunni dovrebbe essere un valido promemoria. Quanto al crocifisso, dovrei premettere che siamo in molti a considerarci cristiani speranti, piuttosto che credenti, ma che, nonostante ciò, riconosciamo al cristianesimo la validità dei principi contenuti nei comandamenti, perlomeno quelli dal quarto in avanti. Avrei forse qualche riserva sul significato del verbo desiderare, utilizzato negli ultimi due comandamenti, dato che, letteralmente, sembrerebbe un processo alle intenzioni. A mio modesto avviso, il punto è che per conseguire una ragionevole umana convivenza occorrono regole che siano valide per tutti e che, come tali, possano diventare parte integrante di ogni essere umano. Questo dovrebbe essere sin dai primi anni di vita, così che il rispetto delle medesime possa diventare spontaneo e non coercitivo. Le regole dei sei comandamenti mi sembrano sufficienti e alla fine sono riassumibili nel non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso e fai ad altri quello che vorresti fosse fatto a te stesso. In sintesi chiedono rispetto reciproco, altruismo, generosità. Si tratta di valori sostanzialmente condivisi da molte religioni o filosofie di vita, comunismo incluso, ma che il cristianesimo chiede siano plasmati sin dai primi anni di vita e nel seguito coltivati liberamente da ognuno di noi. A mio avviso, si tratta di valori che possono essere più gratificanti dei successi materiali, questi da non demonizzare, nello spirito che chi ha ricevuto più dalla vita abbia il desiderio di farne partecipe il prossimo. È per questo che, al di là della fede professata o meno dagli insegnanti, dare un'occhiata al crocifisso dovrebbe essere un incentivo alla costruzione dei giovani, non solo nella scienza, ma anche nella morale. Mario Verbania. Per il nostro futuro prossimo, il pessimismo o l'ottimismo della ragione. Dipende. La ragione è la facoltà di pensare stabilendo dei rapporti, discernendo tra ciò che è corretto e ciò che non lo è. Allora, cerchiamo di vederlo, dal punto di vista economico, il nostro futuro, cercando di capire se dovremo fare un foro in più nella nostra cinghia. Nel 2006 il PIL è cresciuto dell'1,8%. Nel 2009 gli economisti ci dicono che la recessione indicherà un calo del PIL dello 0,5%. Questo significa che nel 2009 la mancata produzione di ricchezza rispetto al 2006 sarà il 2,5% del PIL, che in cifra significa 40 miliardi di euro in meno. L'ottimismo della ragione, considerato tutto questo, ci dice che il governo dovrebbe immettere nel sistema produttivo almeno 20 miliardi di euro e altri 20 miliardi per aiutare le famiglie in maggiore difficoltà. Il pessimismo della ragione verrebbe se il governo stanziasse cifre insufficienti, tenuto poi conto che il debito pubblico automaticamente aumenterebbe, comunque con tutte le conseguenze del caso. Sergio. Il ministro Tremonti ci fa vedere la social card e ci informa che la dotazione è di 1 miliardo. L'alternativa alla munifica, quanto vergognosa per chi la riceve, elargizione, è di trovare 1 miliardo facendo emergere i consumi che non vengono dichiarati attraverso la nota contrapposizione di interessi. Poniamo che tutti i consumatori chiedano lo scontrino fiscale, con evidenziata l'IVA sul prodotto acquistato, e supponiamo che, sull'IVA evidenziata nello scontrino, si abbia diritto al rimborso del 33,33%. Il contribuente che ha diritto al rimborso autocertifica, con lo scontrino in originale, il proprio diritto, si reca presso l'Agenzia delle Entrate, Imposta o presso un centro di assistenza fiscale e trattiene la documentazione probatoria. Sarà compito dell'erario accertare e controllare che non ci siano frodi e sanzionare in modo adeguato i soliti furboni. Poniamo che in un anno abbiamo un fatturato di 50 miliardi. sui quali grava l'IVA al 4%, per un totale di 2 miliardi a favore dell'erario. Poniamo che vi siano 25 miliardi che non sono fatturati. Se i contribuenti avessero diritto al rimborso dell'IVA per il 33,33% su tutti i prodotti con IVA al 4, otterremo un fatturato di 75 miliardi. Dei 3 miliardi derivanti dall'IVA al 4%, 2 andrebbero all'erario, mentre il restante miliardo potrebbe essere destinato ai contribuenti sotto forma di social card. In aggiunta, lo Stato, sui 25 miliardi recuperati, incasserebbe le imposte dirette sotto forma di IRPEF, IRES e IRAP. Giuseppe. La social card è umiliante per chi la usa, in quanto usandola ai supermercati o comunque nei negozi è la prova provata davanti a tutti di essere indigente. Se si vogliono dare i 40 euro al mese o 80 euro ai pensionati, l'equivalente di un caffè e mezzo al giorno ai poverelli, non potrebbe il governo inviare un assegno mensile agli indigenti che non hanno ancora diritto alla pensione e aumentare le pensioni ai pensionati poveri, in maniera da dare privacy alla povertà? Bersani ha parlato di questo provvedimento come di una ciofeca. Sono d'accordo con lui. Altra cosa, Berlusconi e i suoi urlano contro Prodi perché, alzando le tasse, ha diminuito gli stipendi del ceto medio. Come mai, visto che ora può, Berlusconi non cancella quei provvedimenti e fa tornare gli stipendi dei lavoratori dipendenti al pre-Prodi del 2006? Mariolino. Per ovviare alla crisi, si parla di social card e di interventi da 150 a 700 euro per i redditi non superiori a 12.000 euro l'anno. Come mai nessuno dice con fermezza che se le tasse le pagassero tutti saremmo molto più ricchi? Perché, come hanno fatto in qualche altro paese, i politici non si diminuiscono gli stipendi e i bonus? C'è crisi, ma i sacrifici li fanno sempre i soliti. Sono stufo di essere preso in giro e compatito da persone che non hanno idea di cosa sia la vita del popolo bue. Tutti si riempiono di paroloni e di piani che nessuno comprende. Io ho 46 anni, non sono certo vecchio, ma sono molto preoccupato per il futuro di mia figlia. Perché non guardiamo a quei paesi che stanno davvero prendendo misure anticrisi? Claudio. Mi faccio promotore di questa iniziativa. Tutti coloro che, avendone diritto, riterranno la carta un'offesa alla propria dignità, la potranno devolvere in un fondo comune, in modo che possa essere ridistribuita a coloro che non si sentono offesi. Carlo. Basterebbe tassare del 50% le tredicesime per i redditi superiori a 100.000 euro e dare i soldi recuperati a chi percepisce meno di 20.000 euro. La misura si svolgerebbe all'interno del lavoro dipendente e quindi non ci sarebbero problemi di evasione fiscale. Immagino che i pesci grossi, tra cui anche i dirigenti sindacali, non saranno d'accordo. Paolo. È mai possibile che siamo così conciati? Tutti i santi giorni ci rifilano tabelle con le quali ci confrontano con lo Zimbabwe e ci dicono che tutti gli altri sono dei fenomeni. Ma dove vive questa gente? Ogni giorno siamo rovinati e disperati, tanto che non riusciamo addirittura a mangiare. Ma io che in giro mi ritrovo immerso nel traffico, circondato da macchinoni da far paura, mi domando: ma come avranno fatto a pagarli? Piero da Milano. Io penso che lo Stato debba intervenire sui settori in crisi cercando di non finanziare. Faccio l'esempio del settore automobilistico. Il settore automobilistico, in questo momento, è un settore in recessione. Invece di finanziarlo, lo Stato dovrebbe aiutarlo a riprendersi senza intervenire in favore delle ditte costruttrici, ma intervenendo in favore sia dei privati cittadini che delle aziende nel modo seguente. Lo Stato dovrebbe permettere a tutti di scaricare dalla denuncia dei redditi le spese di acquisto di un'auto, ammortizzandole in 5 anni, oltre a tutte le spese di manutenzione. Con queste iniziative, il settore si dovrebbe riprendere, lo Stato incasserebbe più IVA, il cittadino e le aziende pagherebbero meno tasse e, con il risparmio, si pagherebbero le rate delle auto. Un secondo intervento lo vedrei in favore di coloro che lavorano fuori dal comune di residenza, permettendo loro di detrarre dalla denuncia dei redditi le spese di trasferimento, benzina, treno, taxi. Pensate ai sorrisi di coloro che spendono un quarto del proprio stipendio solo per recarsi al lavoro. La mia teoria è quella di analizzare le difficoltà di ogni singolo settore e di studiarne le strategie di rilancio senza finanziamenti, cercando di incentivare il mercato e concedendo delle agevolazioni fiscali che abbiano dei ritorni finanziari legati al maggior consumo. I finanziamenti a fondo perduto non servono a niente. creano improduttività, speculazioni, avventurismi e corruzione. Basta vedere gli investimenti fatti con la cassa per il mezzogiorno. Francesco. In fisica, finché due vasi non sono comunicanti, si possono verificare situazioni di equilibrio nelle quali i livelli dell'acqua sono diversi. L'apertura delle frontiere e quindi la trasformazione della società in una realtà aperta e interconnessa ha messo in comunicazione diversi vasi riempiti a diversi livelli. La conseguenza è la creazione di flussi che, se i dislivelli dei contenuti sono notevoli, possono diventare violenti e distruttivi. L'unione incontrollata di realtà economiche e culturali molto diverse può creare sconvolgimenti come se si unisse la nitro con la glicerina o l'idrogeno con l'ossigeno. Unioni esplosive. Marco. Ho visto che da quando il ministro Gelmini ha portato avanti la sua idea di riforma, oggi divenuta legge, tutti i sistemi informativi di ogni ordine e grado hanno dato risalto solo ai punti riguardanti i tagli, il sistema del turnover nelle università o il maestro unico alle scuole elementari. Mi chiedo perché quasi nessuno faccia passare la notizia che all'interno della legge numero 133 del 6 agosto 2008, all'articolo 16, è stata inserita la possibilità di trasformare le università pubbliche in fondazioni private. Bisognerebbe porsi alcune domande. Perché trasformare le università pubbliche in fondazioni private? Quale possa essere l'obiettivo di questo governo con l'inserimento di tale articolo? Che fine farà l'istruzione pubblica universitaria? Diverremo come gli Stati Uniti? Inoltre, se già esistono le università private in Italia, perché privatizzare quelle pubbliche? Riccardo. Finalmente per il prossimo anno ho deciso di fare il grande salto e mettermi a fare impresa. A gennaio aprirò la partita IVA e, più o meno conscio di ciò che mi capiterà, andrò avanti con il mio carico di speranza e incertezza. Sarà dura, durissima, ma finalmente farò le cose di testa mia e spero di essere all'altezza del mercato. Ormai saranno 3 anni che vi seguo e mi siete stati molto utili. Volevo solo dirvelo anche perché, mediante la vostra radio, ho maturato un modo di essere imprenditore. Certo, tra teoria e pratica c'è l'immenso di mezzo, ma il primo passo, anche se nel vuoto, in fondo sono sempre stato un dipendente, lo faccio con speranza. Igor. Caro Igor, innanzitutto auguri. Fare impresa è una grande sfida, ma anche una strada aperta a molte soddisfazioni. Grazie anche perché, da quanto mi dice, anche la nostra radio ha avuto la sua parte nel far maturare la sua convinzione a diventare imprenditore, e questo è per noi un motivo di sincero compiacimento. Vedi Igor, è importante ricordare il ruolo degli imprenditori, perché quando si parla di mercato e quando talvolta si critica il mercato, ci si può riferire quasi esclusivamente a quella che viene chiamata la società dei consumi, cioè il mercato visto dalla parte dei consumatori. Questo è giusto, ma senza dimenticare che per far sì che una vera economia di mercato esista, è altrettanto importante che ci sia una concreta possibilità e libertà di produrre, di rispondere sul lato dell'offerta alle sollecitazioni che vengono dalla domanda. Diventare imprenditore non è facile, occorrono idee, volontà e sicuramente una certa disponibilità di capitali, ingredienti che in Italia per fortuna non mancano, anche se la società e soprattutto la politica molto spesso non sembrano interessate a difendere il ruolo decisivo dell'impresa. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.